24 di Giovanni Minoli. È un centrodestra fortemente competitivo quello che esce dalle ultime amministrative. Uniti si vince, è lo slogan. Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ai ballottaggi un centrodestra in crescita, Forza Italia trae dai freschi numeri nuovi stimoli sul modello rivelatosi già vincente con Totti alla regione Liguria. Sembri più giovane. Un centrodestra che unito vince e va ai ballottaggi praticamente in tutti i comuni capoluogo. Ma lasciarti non è possibile. Noi abbiamo sempre pensato che un sistema elettorale come quello delle regioni aiuti la coalizione. Se veramente Berlusconi vuole l'unità del centrodestra, come va dicendo, dovrebbe scegliere un modello maggioritario. Non lasciarti non è possibile. Berlusconi e Salvini, il proporzionalista europeista e il sovranista filolepenista, diffidano da sempre l'uno dall'altro, ma stavolta non possono fare a meno di tendersi la mano. Ancora tu. Buongiorno, bentornati su Mix24, buongiorno a Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, il vincitore di questa, uno dei vincitori di questo turno elettorale. Insomma, siamo sempre lì, Toti. Il modello Liguria è esportabile per il centrodestra? Ma io penso francamente di sì, perché no? Ma voglio dire, ci vuole un nuovo PDL? Ma semplificare la politica italiana non sarebbe un male, Minolis. Mi sento parlare da giornalista e da politico da almeno una ventina d'anni e poi tutte le volte ci frammentiamo sempre di più. Senta, lei però con Salvini ha un rapporto molto migliore di quello che ha Berlusconi. Perché? Ma non è così, guardi, io sto andando all'aeroporto di Fiumicino e ieri sera ho cenato col presidente Berlusconi e siamo stati insieme alcune ore per fare l'analisi di questo voto. Semplicemente io penso che governando insieme molte regioni, avendo responsabilità di molti comuni, dovendo tornare al governo insieme, occorre avere buoni rapporti con tutti. Senta, la politica non è un matrimonio, è l'incontro di interessi. Senta Toti, ma che cosa non capisce Berlusconi di Salvini? Ma no, semplicemente Salvini ha preso una Lega che era molto ridotta male e ha cercato una politica talvolta, come dire, forse un po' muscolare per rimetterla in salute, ci è riuscito, ma nella sostanza gli amministratori della Lega, le idee della Lega sono più o meno quelle del suo DNA. Sì, ma ha provato a spiegare a Berlusconi che cosa non gli riesce di capire di questo Salvini? No, ma guardi, non credo sia una questione personale, credo sia una questione politica. Una volta il PDL valeva circa il 40% di questo paese e la Lega valeva qualche punto percentuale. È evidente che l'alleanza di centrodestra fosse, come si dice, PDL-centrica. Oggi è una galassia molto frammentata. Sì. È ovvio che i rapporti tra i partiti siano un po' diversi. Senta, no? Totti. Danno i fatti, non l'umanità. Senta, Totti, ma Salvini accetterà mai che sia Berlusconi a guidare questo nuovo centrodestra? Non sarà un problema personale, ma gli assomiglia. Ma io non so cosa accetterà Salvini, avrebbe chiesto a Salvini. Sì, io, ma lei gli parla sempre. No, io credo che si debba costruire un centrodestra rinnovato, un nuovo centrodestra, che poi sia la lista unica, che poi sia una federazione, sono alchimie che mi interessano poco. Ecco, ma lei però... A me interessa, Minoli, che a Genova siamo al 38%. Infatti, e lei ha vinto, certo. Ma no, non è che ho vinto io, è che una formula... No, il metodo, quel metodo. Tante sensibilità messe insieme intorno a un baricentro che funziona molto bene, che è l'amministrazione regionale che... mi onoro di presiedere, ha funzionato e ha dato credibilità al centrodestra di fronte a un centrosinistra spaccato. Ma lei come immagina possa essere il metodo per scegliere il futuro leader? Guardi, io credo che il centrodestra debba avviare una costituente importante, debba sedere intorno al tavolo tanti dirigenti, anche locali, che sono spesso stati sottovalutati e poco ascoltati, tanti militanti. Occorre pensare a un centrodestra 4.0, stando a una cosa che va di moda molto adesso, perché... Sì. Dopo la Seconda Repubblica 22 anni è durata, l'antipolitica e i colpi grillini sono stati pesanti, oggi questa antipolitica sembra retrocedere, ma non retrocede per caso, retrocede di fronte a un centrodestra che ha ripreso consapevolezza. Senta, Toti, di sé e competenza. Toti, siamo fuori dalla campagna elettorale. Senta, parlando del centrodestra... Per la verità ci sono i ballottaggi, Ah, va bene. Senta, parlando del centrodestra, lei ha detto: siamo una coalizione di tre partiti che col tempo hanno tutti subito una mutazione genetica. Ecco, mi spiega questa mutazione genetica? Beh, dopo otto anni anni, 9 anni di crisi economica continua, con tutte le cose che ci sono state nel mondo, è evidente che non c'è più quello slancio. Una volta Forza Italia... No, ma la mutazione genetica mi interessa, perché... La mutazione genetica è molto semplice. Una volta Forza Italia rappresentava un tipo di borghesia che aveva delle aspettative sul futuro molto diverse da quelle del ceto medio di oggi, che ha più paura di impoverirsi che non voglia, come dire, di lanciarsi verso un futuro radioso che purtroppo non vede. La Lega era un partito sindacato del nord, oggi ha aspirazioni ad essere giustamente un partito nazionale di destra con alcune idee molto identitarie. Ecco. Fratelli d'Italia ha recuperato un pezzo della destra storica, ma si è anche allargata ad altri temi, quello della famiglia, quello della tutela di... Senta, Salvini dice, lei è diventato nazionalista, diciamo così, ma è sempre per l'uscita dell'Italia dall'euro, anche lei lo è? Ma guarda, io ho letto poco fa un'intervista sul Corriere della Sera che avrà letto anche lei, sì, dove i toni di Salvini mi sembrano francamente abbastanza tattici e possibilisti. Beh, li cambia ogni giorno i toni, quindi... Però parliamoci chiaro, Minori, quando uno va a ritrattare dei trattati internazionali anche molto complicati e rigidi come quelli che ci legano all'Europa, se uno va lì fischiettando dicendo va tutto quasi bene, aggiustiamo le virgole, normalmente torna a casa che gli hanno sfilato. Naturalmente, però lui dice, ha detto molto chiaramente, usciamo dall'euro. Volevo sapere se lei è d'accordo. Io sono d'accordo che l'euro è una moneta va ripensata, va ripensata. Dopodiché sono certo che se andiamo a Francoforte, ripeto, fischiettando con... Non fischiamo. Andiamo più decisi. Senta, ma sullo Ius Soli lei lo pensa come Salvini o no? Va approvato o no? No, non va approvato. Senta, presidente Toti, Macron in Francia ha stravinto sventolando, quindi quel milione di bambini, ragazzi che sono nati in Italia non hanno diritto alla cittadinanza, secondo lei? Bisogna ragionarne molto bene e non è un tema del prossimissimo futuro. È difficile fare passi di questo tipo quando il paese è in preda a un'ondata migratoria. Vabbè, ne parleremo di questo. Allora, ne parleremo. Il problema è che oggi mi sembra che non ci sia il clima per poter discutere di questo. Senta Toti, Macron in Francia ha stravinto sventolando con determinazione la bandiera europea. Il suo è un altro modo di vedere l'Europa? Però Macron ha sventolato la bandiera europea, ma non ha affatto detto che l'Europa così va bene. Io non ho mica detto che ha detto quello. I convinci di Macron talvolta ha detto delle cose sull'Europa. Ecco, ma cosa insegna? Abbastanza rigidi. Allora, diciamo così, cosa vi insegna? Qual è la riflessione che ha fatto? L'esperienza di Macron. Macron insegna una cosa che io vado dicendo a questo centrodestra da molti mesi, a volte ascoltato, molte altre volte meno, per la verità. Che c'è voglia in Europa di novità, che c'è voglia di cambiamento, che i partiti tradizionali non solo hanno subito... Vabbè, è finito il Novecento politico con Macron, diciamo. Ma è finito da mo', ma tanti non se ne sono accorti. No, ma adesso gli ha messo il suggello. Ecco, voglio dire, da qui alle elezioni, secondo lei, può... Non so quando saranno, forse neanche lei, penso che saranno a scadenza. A scadenza, sì, anch'io lo penso. Anch'io lo penso. Senta, ma non vale niente quello che penso. Diciamo, può spuntare un Macron in Italia che sparigli le carte, secondo lei? Se le classi dirigenti dei partiti tradizionali non saranno in grado di dare risposte, certamente sì. Senta, però il presidente... Può comparire, guardi, più a destra che a sinistra. Più a destra che a sinistra, penso anch'io. Il presidente di Mediaset, Confalonieri, che è grande amico di Berlusconi, consigliere, come lei sa, come nessuno, dice: ottimo il lavoro di Toti in Liguria, però Berlusconi fa bene a tenere in caldo anche l'alternativa Renzi. Lei però non è d'accordo. No, io non sono d'accordo perché le alleanze si fanno prima e ci si presenta agli elettori con una faccia e si dice cosa si vuol fare, e dall'alternatività tra destra e sinistra dimostrata questi ballottaggi che stiamo per affrontare è avvenuto il ridimensionamento grigio. Quindi se si vuole riportare l'antipolitica dentro la fisiologia di percentuali tollerabili, bisogna che centrodestra e centrodestra scegliere più chiaramente, dice lei. Poi il presidente Confalonieri, come lei sa, ho lavorato con lui per anni, lo so bene, è persona assolutamente raffinata, d'azienda. Fa l'uomo d'azienda, ma fa anche il portava il ventriloquo di Berlusconi in certi casi. Però è ovvio che parli sempre dal punto di vista della stabilità del sistema economico della sua azienda. Quindi alla fine Francia o Spagna, purché ci sia un governo che governi, le aziende sono più felici. Senta, però da una parte Salvini, dall'altra Renzi. Confalonieri descrive un po' così la strategia di Berlusconi, quella famosa democristiana dei due forni. No, Berlusconi ha seppellito il mondo democristiano scendendo mi capisce quello che dico. Capisco dico bene, che la politica dei due forni, da una parte Salvini, dall'altra Renzi, e poi vediamo. Non credo che sia la politica che Forza Italia deve seguire. Senta, ma quindi per lei Renzi è un avversario, non un potenziale alleato, parliamo chiaro. Un avversario politico. È cristallinamente un avversario. Sì, sì, ok. Una persona che ha fatto anche un percorso di rinnovamento. No, d'accordo, però oggi è un avversario. Direi che a me piacerebbe vedere anche nel centrodestra fare, ma dopodiché siamo avversari perché l'ho capito. Minoli, non è solo una questione che non si può governare con chi la pensa al contrario di te su tutto. Abbiamo già provato Letta, abbiamo provato Prima Monti, abbiamo provato Renzi, mo proviamo Gentiloni. Non Senta, mi pare che stiamo facendo gran che capolavoro. Cosa non le, che cosa non le piace proprio di Renzi? Ma no, quasi su tutto non siamo d'accordo. Le politiche di sicurezza, la legittima difesa. Cioè, non le piace niente di Renzi. No, vabbè, non le piace niente di Renzi. La sua stagione la considera conclusa oppure potrebbe anche tornare a Palazzo Chigi? Trovo che, come dire, la fretta ha fatto i gattini ciechi. Il senso di rivalsa di Renzi dopo un referendum dove è stato sconfitto dagli italiani gli sta facendo perdere un po' di lucidità. Ma detto questo, la mia stima per Renzi esiste. Ha fatto un percorso di rinnovamento della sinistra e del PD generazionale però, e anche politico importante. Sì, però per fare la legge elettorale, mi scusi, Berlusconi sembra preferire l'accordo con Renzi. Quindi si sbaglia. Gliel'ha detto ieri sera a cena, gliel'ha detto chiaro. Io l'ho detto ovunque che non ero d'accordo con quella legge tedesca e che il proporzionale non garantiva maggioranze di governo in questo paese. E lei che legge pensa sia lei che legge pensa sia possibile fare? Mi è totalmente indifferente purché sia un maggioritario che consenta a qualcuno di governare, che consenta ai cittadini di scegliere coi collegi o con le preferenze, scelga al Parlamento i propri parlamentari e che faccia candidare delle coalizioni o le liste uniche come si vuole alla guida del paese facendo Totti, si rende conto che se avesse vinto il sì al referendum adesso sarebbe tutto più facile? No. Sarebbe più facile, sarebbe sfasciato questo paese. Va bene. Abbiamo abolito fintamente le province, abbiamo ancora i centri per l'impiego in piedi con i dipendenti Totti, c'è il secondo turno, lo so, però con calma, senta, sia con Falonieri che Renzi. No, richieda a un presidente di provincia chi spala la neve sulle strade provinciali che sono alcune migliaia di chilometri. Sembra nessuno, quello che abbiamo visto a Rigopiano. Chissà perché. Senta, chissà comunque, sia con Falonieri che Berlusconi considerano Renzi affidabile. E quindi diciamola chiara, su Renzi c'è un perfetto disaccordo fra lei e Berlusconi, non è grave, ma è così. No, io non credo che Berlusconi consideri particolarmente affidabile Renzi e se vuole facciamo una breve rassegna stampa delle sue dichiarazioni degli ultimi sei mesi, tutta sincerità, tant'è vero che il patto del Nazareno famoso, per fortuna archiviato, salta sulla inaffidabilità denunciata da Senta, ma a parte la cena di ieri sera, lunga e proficua, qual era il punto centrale della cena? No, abbiamo analizzato. Tanto cosa avete mangiato? Abbiamo mangiato del prosciutto, melone, fichi e poi abbiamo mangiato degli ottimi, come si dice, pomodori al forno ripieni di riso. Cioè tutti e due a dieta, insomma, sostanzialmente. No, eravamo in tanti, non eravamo non solo voi due. Senta, ma per quello, perché da soli in realtà vi vedete poco, lei e Berlusconi. Beh, io sto anche molto in Liguria, diciamo con proficui risultati se le persone sono d'accordo. Sono d'accordo. Senta, e vi sentite spesso? Sì, ci sentiamo spesso. Non spesso come una volta, ma non perché i maligni. Io al presidente Berlusconi dico francamente quello che pensa e lui dice a me molto quando talvolta gli rompo le scatole. Per dire chiaramente, lei l'ha detto, vuole una legge maggioritaria, lui la vuole proporzionale. Forse non vi parlate tanto non litigare troppo. Ma guardi, ieri sera poi c'è stato anche dopo i risultati amministrativi un'ampia riflessione tra tutti gli esponenti principali del partito, dicendo che alcune riflessioni andranno fatte, poi vedremo quale legge sarà possibile. La verità, Minoli, è che non è che decide Berlusconi e neanche Forza Italia che legge si fa. No, nel senso che in Parlamento il PD è il primo gruppo, i grillini sono il secondo gruppo, veniamo ottimi terzi. Senta, quindi, io non so se c'era anche Mara Carfagna ieri sera a cena, sì, però, sì, certo, ecco, certo. Però Mara Carfagna è stata molto dura con lei proprio ieri, ha detto dopo anni di renzismo spinto adesso c'è voglia di un centrodestra guidato da Berlusconi. Lei cosa gli ha risposto? Ma che Berlusconi guidi Forza Italia, mi sembra una cosa. No, ha detto un centrodestra guidato da. Ha detto un centrodestra guidato da Berlusconi. Bene, molto semplice. Totti può anche dire che il suo centrodestra sarà guidato da Berlusconi. Poi ci saranno i leghisti che diranno che il loro centrodestra è guidato da Salvini. Poi ci saranno i Fratelli d'Italia che il loro centrodestra è guidato dalla Meloni. Poi ci sarà Fitto che rivendica per sé. E sarete di nuovo allo stesso punto. Si tratta di mettere queste anime insieme. Tutti quanti devono scegliere delle regole. Ma queste anime insieme in un unico contenitore o ognuno conserva la sua maglietta? Dipende molto dalla legge elettorale. Certamente insieme con dei meccanismi, io spero, semplificati di selezione della classe dirigente. Lei ha detto, adesso arriviamo alla classe dirigente. Però per me è semplice. La classe dirigente, voce in capitolo, ce lo devono dimostrare, certo, quanti ci mettono la faccia e corrono. Lei, esatto, quanti parlamentari di Forza Italia ha visto? Vabbè. Io non ho seguito il dettaglio, però mi fido di lei, se ne ha visti pochi. Senta, Presidente Toti, lei comunque ha detto, io tra 5 anni mi candido per il secondo mandato a Presidente della Liguria. Quindi diciamo che in ogni caso si chiama fuori da ogni discorso di leadership futura. Io mi chiamo fuori, io sto facendo un lavoro per la Liguria. Se dice che si ricandiderà, vuol dire altri 5 anni. Le mie intenzioni sono francamente di ricandidarmi, perché secondo me due mandati sono quello che servono per dare un taglio, certo, e un segno alla regione. Poi se cambiano le circostanze, io sono un politico, giornalista prestato alla politica. Un'aperta porta. Senta, Presidente Toti, Macron... Io tengo sempre tutte le porte aperte, per entrare ma anche per uscire, per stilarmi rapidamente. Senta, Macron, appena eletto in Francia, ha detto saremo audaci. Qui, oggi, per lei cosa vorrebbe dire saremo audaci? Per il centrodestra mio essere audaci vorrebbe dire fare un passo avanti rispetto alla configurazione attuale, marciare verso una federazione o una lista unica, che vedo che neppure Salvini vuole, ma io continuo a ritenere che sia quell'elemento di novità che serve, rivedere il nostro programma in sintonia con un paese preoccupato, d'accordo, dalla crisi, trovare meccanismi di selezione della classe dirigente meritocratica, questo mi sembra fondamentale. Senta, lei ha detto che uno dei motivi per cui Berlusconi la scelse all'epoca era la sua capacità di tenere lo spogliatoio. Ecco, è vero? Mi pare di dimostrare. Ma cosa vuol dire tenere lo spogliatoio? No, per i telespettatori che non sono proprio appassionati di calcio. Vuol dire che è abbastanza chiaro che ci sono partiti nell'interno del centrodestra che hanno sensibilità diverse tra loro. Però noi, ad esempio, in Liguria riusciamo a governare con tutti i partiti dell'ampio centrodestra e riusciamo a governare con una maggioranza anche risicata molto bene, ma così, senta, almeno ritengo io. Senta, mi faccia capire. Si è allargata ancora la maggioranza, vorrei tenere... pure, e stiamo andando bene. Toti, vorrei tenere la metafora dello spogliatoio. Nello spogliatoio di Forza Italia c'è rimasto qualche fuoriclasse nascosto? Lei, ce ne sono tantissimi, ce ne sono tanti, spazi sui territori, troppo spesso non valorizzati, sempre gli stessi, per questo che vorrei un meccanismo di selezione un po' più democratico. Poi dice c'è un problema di ricambio di classe dirigente, ma o comunque non è che dobbiamo rottamare, c'è gente che è lì da tanti anni, che è brava, capace, appassionata, c'è gente che magari è lì da tanti anni e si è stancata, c'è gente che è lì da pochi anni ma è sopravvalutata. Senta, lei dice, cioè, mi fa un nome di un sopravvalutato? No, non ne farò mai dei nomi, no, sono per carità, mancano 5 giorni alle elezioni. Ah, no, niente, dai, non è il momento. Ha ragione, scusi, è una domanda veramente stupida. Senta, lei dice che gli elettori del centrodestra sono più avanti della loro classe dirigente. Ma più avanti cosa vuol dire? Vuol dire che io, quando giro per strada, incontro e vado alle manifestazioni, specie ora del ballottaggio, ma anche per le mie regionali, incontro leghisti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ex democratici. Che sono meglio di lei. Che sono meglio di lei? No, che pensano che sono, siamo degli se idioti, sono più avanti. Che pensano che siamo degli idioti se non sappiamo stare insieme. Che l'alternatività è quella al PD e ai grillini, e che non c'è bisogno di litigare, di darsi delle gomitate. Senta, perché alla fine siamo più omogenei di quelli che dirigenti fanno vedere talvolta. Toti, ma se Salvini alla fine dovesse. Salvini alla fine divide, perché questo non c'è dubbio, può essere Zaia a unire il centrodestra? Ma può essere. essere chiunque scegliamo insieme. Zai è un bel governatore, Maroni è un bel governatore. Potrebbe essere lui. Ma no, unisce. Non faccio dire che potrebbe essere lui. È uno che unisce, Zai. Confronta Salvini, mi sembra che unisca. Sta governando in coalizione. E quindi unisce. Ma si può dire, guardi che non è mica una bestemmia dire che unisce. Ma no, ma per l'amor di Dio, io vado d'accordissimo pure con Salvini. Ma la so, questo l'abbiamo detto, se hai capito benissimo. Senta. Quindi per me non divide. È ovvio che parla degli elettori diversi da quelli che parla Toti, ma se facciamo una squadra di tutti i portieri... Senta, Presidente Toti, no, me l'ha già detto questo, senta, senta, ma alla fine, mi dice una cosa, ma alla fine, che cosa le piace di più di Berlusconi? Oggi, che cosa le piace di più? L'ha visto ieri sera, avrà avuto un Berlusconi altro lancio. Ha inventato il mondo in cui io faccio politica. Va la bene. Divisione tra il centro-est e il centro-sinistra. No, dicevo di la persona. Che cosa le piace di più di Berlusconi, Silvio? Ma io a Berlusconi voglio bene. Vabbè, le piace di più il fatto che le vuole bene. E di meno cosa le piace? E di meno ci sarà qualcosa che non le piace di Berlusconi? Guardi, io sono legato da stima e affetto. Berlusconi non mi farete mai litigare con Berlusconi. Io non ci provo proprio. Anche perché non le conviene. È andata male a tutti quelli che hanno convocato, litigato nel centrodestra con Berlusconi. Penso, quando penso che alcune bandiere che lui è stato il primo a tirare fuori in questo paese, la chiarezza del messaggio, il rapporto diretto con va gli bene, elettori. Va bene, senta Toti. Talvolta, come dire, le molliamo un po', io... Toti, Presidente Toti, lei ha fatto tanta televisione, è un suo grande amore. Secondo lei è stato giusto togliere il tetto alle star per la televisione pubblica? Ma sa, la televisione sì pubblica... Sì o no? Mi dica sì o no. Le dico che sta sul mercato la televisione sta pubblica. Sta sul mercato? E quindi deve... Sta sul mercato, ma c'è anche 2 miliardi di canone garantito all'anno. Ma quello è un grande equivoco della pubblica italiana, ma nel momento in cui sta sul mercato e compete con Sky, con Mediaset, capisco che... Ma è quello che deve fare, la TV pubblica, la missione della TV pubblica è quella di competere ad armi pari, cioè sulla chiave di televisione commerciale. Non mi faccia finire la domanda. No, perché volevo capire esattamente il punto. Io non lascerei la Rai com'è. Ecco, cioè cosa deve distinguere il servizio pubblico dalla televisione commerciale? Mettiamola così. La televisione commerciale si deve pagare con i soldi della pubblicità e quell'altra c'ha il canone. Il servizio pubblico c'ha il canone, dovrebbe fare informazione. E quindi il problema del tetto si pone in qualche modo. Il problema si porrebbe di spacchettare la Rai, mettere qualcosa sul mercato e ridurre vede che ce l'ha un'idea sul da fare. Senta, in Sicilia continuano gli sbarchi. Secondo lei si possono coniugare sicurezza e solidarietà? Si possono coniugare sicurezza e solidarietà, certo che si possono coniugare. Il problema è non esasperare, come è successo in Italia, la situazione. Perché non è che siamo stati rimasti soli. Senta, ma tra Islam e democrazia... Se non gestisci per 2 anni una questione, dopodiché la gente esplode, da quel momento d'accordo. Il ragionamento è più difficile. Senta, ma tra Islam e democrazia c'è un matrimonio possibile o no? Ma io suppongo proprio di sì, se no siamo nei guai. Senta, Presidente Totti, le faccio un'ultima domanda. Lei è un grande divoratore di televisione, appassionato, lo leggo in tutte le interviste. Ma mi dice qual è stato in questa stagione il suo programma preferito? Il mio programma preferito? È dura, questa? Questa è durissima, ma non può svicolare. Posso cavarmela con un film. Deve dire... un telefilm. No, troppo facile. Guardi, le dico cosa guardo quelle poche volte che sono in casa. Io guardo... No, può dire il mio, così sta tranquillo, gentile, educato. Io lei la seguo dagli anni... No, mi dica la verità, 80. Mi dica la verità. Qual è il programma? Io il primo mixer lo guardavo... Va bene, avevo dato un chiodo. Ma tu vuoi attaccare il quadro, va bene, grazie Presidente Toti. Grazie, arrivederci, grazie. 800 24 00 24, il numero verde 349-238-6666, gli sms, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Mix 24. Dunque siamo all'ultima puntata di questo ciclo di Mix 24, ma dopo 4 anni non ci sarà più il quinto. La radio ha cancellato il programma, ma si è dimenticata di dirci il perché. È un suo diritto, eh? Ma la buona educazione resta un valore che poteva accompagnare questa decisione. Se no, restano leciti tutti i dubbi. Preferiamo la chiarezza alla grettezza. Ringrazio i miei compagni di avventura Mario Secchi, che questa settimana ha varato il suo nuovo list dove si possono trovare analisi e commenti di altissimo profilo. Ringrazio Pietrangelo Buttafuoco, che nel suo ultimo libro I baci sono definitivi ha raccolto le sue struggenti e poetiche dediche dalla metropolitana, che è stato un punto di osservazione della vita per lui e per noi. Ringrazio le splendide Ale, ovvero Cravetto e Fiori, che domani vi saluteranno a modo loro, come ogni venerdì. Ringrazio Gloria Guerrera per le sue dolci dediche d'amore, Antonella Migliaccio, che con la storia ogni giorno ci ha proposto una riflessione in più, Franco Schipani per il suo talento musicale e la sua allegria, i bravi registi Alessandro e Valerio, che si sono alternati con maestria alla guida del programma. Grazie al professor Roberto Bernabei per le sue perle di saggezza medica e ancora grazie alla mitica stagista Rachele Caracciolo, che è cresciuta tantissimo in questi mesi. E soprattutto grazie a voi ascoltatori, che siete aumentati costantemente in questi 4 anni, anche nell'ascolto delle repliche serali, che hanno fatto un vero e proprio boom. Per 4 anni, inoltre, ci avete consentito di essere sempre nella top 10 degli ascolti in podcast. Un bel successo, grazie, grazie davvero di cuore a tutti. E adesso, Pietrangelo, cosa ci fai ascoltare oggi? Eccola! A innamorarsi, sai, ci vuole un attimo, ma a guarire poi non basta un secolo. Ma è così bello, sai, soffrire per amore, è così bello, sai, amare, amare ancora. E allora? E allora tutti gli attimi in cui ci si innamora erano in metropolitana, oggi stretti tra i pendolari travolti da profumi di fragole, mandorle, da nuvole, di ranuncoli e brodo di giuggiole. Nessuno sa più che inventare tanto, tutto è così bello, e nessuno, Giovanni, ha chiamato. Ho scelto io questo brano per i nostri ascoltatori per salutarli e ricordare con Giorgio Conte la squillante, delicata avvertenza. A innamorarsi, sai, ci vuole un attimo. Non sai più cosa inventare, a chi ti chiede che cos'hai, niente di niente tu risponde, sai. Tenerlo vivo che è più difficile. Vabbè, insomma, Mario, c'è una bolla? C'è una bolla, c'ho musica, c'ho Italia, e l'ultimo brano musicale che metto qua a Mix 24 e non poteva che essere lui. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, wonderful, wonderful, good luck. Allora, baby, dove andiamo? All'ultima puntata un po' cantata, Giovanni. Allora andiamo in America, ovviamente, e facciamo un po' una delle nostre come dire, visioni controvento, ma non troppo, in realtà è la verità che ogni tanto emerge, la realtà inesorabile, puntuale, inestimabile. E la realtà purtroppo è che l'America, come abbiamo tante volte detto e in qualche maniera anticipato qui su Mix 24 con Giovanni, con Pietrangelo, con l'ex ambasciatore Sergio Romano, che tante volte è nostro ospite, l'ha ribadito, in America c'è una guerra civile strisciante. E sono arrivati, ahimè, a sparare, perché l'attentato in Virginia è opera purtroppo di un sostenitore, di un volontario del senatore Bernie Sanders, che con grande prontezza ieri e giustamente ha definito come spregevole tutto questo. Però contemporaneamente bisogna anche interrogarsi su quelli che sono i frutti di un clima rovente, un clima diviso sulla presidenza Trump, frutti dell'hate speech da una parte e dall'altra. E oggi ho visto che i giornali glissano un po', o comunque dribblano la faccenda del volontario della campagna di Sanders, ma ci sono dei dettagli sulla stampa americana molto precisi è assai inquietanti su questa figura. E beh, però allora, giusto per continuare a nuotare contro la corrente, mi viene da dire: che cosa sarebbe successo se a sparare fosse stato un attivista, un volontario della campagna presidenziale di Trump? Lascio a voi la risposta. Salamino! Sottotettisti del Rai controordine! Controordinissimo! Giornalisti, fuochisti, macchinisti, elettricisti, cerchio bottisti, terzisti, artisti, attrezzisti, balestristi, uomini di fatica e spalatori, il governo, caro Giovanni, riconsidera la decisione del tetto agli stipendi Rai e, come Buzz Lightyear, ognuno potrà dire: verso l'infinito e oltre! Altro che tetti, oltre l'infinito e, insomma, per i cieli, perché Mario Orfeo, detto Moiro Orfeo, nuovo direttore generale, schiocca la frusta! Schiocca la frusta, sfascia il tetto e sfida la legge e anche il parere dell'Avvocatura dello Stato, toglie insomma il bieco tetto che costringeva tutti i più smaglianti volti della TV a stare sotto il tetto di miserabili 240.000 euro e fa sfilare tutte le sue più zannute fiere pronte per il più smagliante palinsesto. Ecco Moiro ed ecco riparato il torto dei torti! Torna Paola Perego. Ecco Moiro ed ecco più artista e più artistico che pria. E Bruno Vespa. Ecco dunque che ballerine e nani, absit in iuria verbis, festeggiano per il consolidarsi di Flavio Insinna. Ecco dunque, c'è pure Fazio Fabio, ciao ciao Rai 3, che si fionda su Rai 1 e bisogna pur dire, Giovanni, Mario, diciamo, questo fatto che Fabio Fazio resta il Rai e va il Rai 1. Era normale. Sì, però tiro un sospiro di sollievo. Urbano Cairo, che così non se lo prende alla 7 e, come dice il proverbio, lo sparagno è mezzo guadagno. Ma chi lo sa. Orfeo dunque schiocca la frusta e cerca di tenere lontano da sé il nemico numero uno di tutte le trame di Viale Mazzini. E sto parlando dell'irreprensibile, dell'incorruttibile, del severissimo e spietato censore delle leggerezze nel servizio pubblico. Chi è? Il magnifico Michele Anzaldi. Che non le manda a dire, anzi, pur responsabile della comunicazione del Partito Democratico, Anzaldi obiettivamente affronta il nodo dei nodi, il ruffiano marchingegno contra legem, e scrive così Anzaldi: ora 41 persone festeggeranno. Si tratta di quei conduttori, giornalisti, collaboratori della RAI, il cui compenso, eccetera, eccetera. Ah, beati loro, dai. Beati loro, giusto. Insomma, Sodono augelli far festa. Augelli che fanno festa, ma Movimento 5 Stelle, Renato Brunetta e pochi altri sparano pallettoni contro la decisione del CDA. E poiché, Giovanni, qua bisogna ragionare, poiché il danno erariale è in agguato, pallottoliere alla mano, il rischio, fatti salvi sottotettisti, è uno solo. Quello che si devono vendere perfino la dentiera. Non credo, non credo. Non credi? E trovarsi un tetto, perché anche la casa va da sé, rischiano di doversela vendere e così cantare. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano: che bella la casetta in Canada. Posso dire una cosa? Dilla pure. Allora, ne dette tante. Dine ancora una. Abbiamo avuto sempre i Salamini, Ettore Petrolini. Un saluto a Franco Petrolini, il nipote di Ettore, che ci ringrazia. Bene, questo mi fa piacere. C'è ancora una bolla, Mario? Sì, però prima salutiamo un amico che è stato nostro ospite con noi per tanti anni e te lo faccio sentire. Ma chi gli ha preso a Cromwell di fare un giro di conferenze? Perde 60 milioni a trimestre. Parlerà su come si perdono soldi. Gesù Cristo, se vendesse male non morirebbe più nessuno. Sempre lui, sempre Gordon. Gordon dovevamo pur salutarlo, è stata una presenza fissa tra noi, da Wall Street guardava il nostro lavoro, i nostri commenti, allora, i nostri errori. No, io ricordo sempre che domani c'è la scadenza di Mutasi, che le tasse sugli immobili in Italia sono ancora molto alte, valgono 49.1 miliardi, quindi cari contribuenti, voi lo sapete, viviamo ancora in un mondo e soprattutto in una nazione che ha il prelievo, uno dei prelievi fiscali, delle pressioni fiscali più grandi del mondo. Sì. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS è pubblicità. Mix 24. Lui era il comandante di nave, quindi era abituato, diciamo, ad avere un equipaggio, una truppa da comandare. Achille Lauro era un filibustiere, era un politico molto furbo, un imprenditore, poi è diventato politico. È stato forse il più grande imprenditore del Mezzogiorno, almeno nel Novecento. È stato un uomo politico molto spregiudicato. È un presidente del Napoli piuttosto bravo. Chi non gli voleva bene metteva in giro le storie che prima delle elezioni gli dava una scarpa e poi gli dava l'altra dopo. È stato un politico amato e discusso, imprenditore spregiudicato, ricco armatore, proprietario di giornali, presidente del Napoli e sindaco plebiscitario della sua città. È Achille Lauro, nato a Piano di Sorrento il 16 giugno del 1887, 130 anni fa. Protagonista di mille avventure, Lauro aderisce al Partito Monarchico, diventando leader del Partito Monarchico Popolare. Per due volte diventa sindaco di Napoli e nel 1953 entra in Parlamento. Quando il comune di Napoli viene commissariato, Lauro resiste e gli anni 70 lo vedono ancora in sella. Non è più sindaco, ma siede in Parlamento, prima con i monarchici e poi con il Movimento Sociale. Nel 1976 fonda la TV Canale 21, che definisce pomposamente la prima emittente libera d'Europa. Gli anni 80 sono poi segnati dalle difficoltà imprenditoriali di Lauro. Prima il fallimento del suo quotidiano, il Roma, e poi quello dell'intera flotta. Muore a Napoli il 15 novembre del 1982, a 93 anni. Allora, per i gialli della storia, una puntata dedicata al mitico comandante Achille Lauro. Dopo il giornale radio, Mario, hai ancora una bolla? Sì, è un brano che per noi è stato importante e soprattutto è stato importante per la storia della musica. Prego. Volta che lo sento i brividi, sentite qua. Don't try, turn tables instead. Vabbè, gli Alan Parsons Project, sai perché è importante questo album, Eye in the Sky? Perché c'è dentro, è tutto fatto con musica elettronica, ma c'è dentro la prima traccia totalmente suonata da un computer nella storia della musica leggera, in particolare si chiama Mamma Gamma. E dopo questo piccola incursione da dilettante della musica, vi racconto un'altra cosa invece che dice molto sulla contemporaneità. Ancora cerchiamo di volare alto, anzi vogliamo proprio, perché ci occupiamo di cacciabombardieri e gli Stati Uniti hanno venduto al Qatar, segnate, Stati Uniti / Qatar, 36 caccia F-15 per, Giovanni, 12 miliardi di dollari. La conferma è arrivata dal Pentagono e la vendita, è inutile dirlo, arriva in un momento delicatissimo e questo dimostra come gli Stati Uniti giochino sulla scacchiera medio orientale nelle tensioni tra Arabia Saudita e appunto Qatar. Prego, e adesso il professor Roberto Bernabei, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Lancet, aprile 2017. Sopravvivenza e disabilità degli anziani in Cina. Come ho detto, credo, molte volte, il gruppo di età che cresce più velocemente è quello degli ultraottantenni. Il problema è che ormai sappiamo che l'aspettativa di vita è lunga anche per chi oggi ha 40 o 50 anni, ha un'aspettativa di vita importante, quindi si aspettano di arrivare questi quarantenni o cinquantenni, quasi sicuramente hai 90 anni di vita. Ma come? Questa è la domanda vera. Insomma, vale la pena vivere così a lungo? E capiamo qualche cosa in più, perché in Cina sono stati studiati oltre 20.000 cinesi di tre età diverse: 80-89, 90-99 e 100-105, valutati tra il 1999 e il 2008, per vedere se quelli del 2008 stavano meglio rispetto a quelli del 1999, cioè cosa succede nel tempo alle diverse coorti di età. Bene, la mortalità è diminuita tra il 99 e il 2008 in queste coorti di vecchi, e anche la disabilità, cioè il funzionare male nelle attività della vita quotidiana, è diminuita, a dire che stanno un pochino meglio, con però alcuni costi, perché i deficit cognitivi e la performance fisica, cioè il fatto di fare attività fisiche sotto sforzo, invece erano peggiorate. Cioè, perlomeno per i cinesi, ma probabilmente estrapolabile anche a noi, si vive più a lungo ma con alcuni costi a livello di attività fisica, quando dobbiamo fare degli sforzi fisici, e attività cognitiva importante. Quindi campare a lungo ha dei costi, ma sono i costi del successo di campare tanto. E per chiudere oggi, Gloria Guerrera, cosa ha scelto definitivamente per noi? Oggi una canzone per chi è a fronte di stanchezza, felicità o tristezza. Come un guerriero, balla. Raffaella Carrà, Ballo Ballo. Io sono qui